E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Presto detti, l'INPS diffonde i dati di ottobre sulla cassa integrazione ordinaria, straordinaria in deroga e anche sul ricorso alla disoccupazione. Il mese di riferimento è ottobre e devo dire che i dati sono incoraggianti. Perché? Perché c'è chiaramente un aumento di 3-4 volte rispetto a ottobre del 2008, quando la crisi non si era ancora manifestata sulle imprese, ma in dubbio c'è un rallentamento del ricorso alla cassa integrazione complessivo e anche delle domande di disoccupazione rispetto a settembre, e questo è un dato importante perché ci permette di dire che la velocità della cassa integrazione, dell'incremento della cassa integrazione e anche della disoccupazione sta rallentando. Poi vedremo se a novembre questo verrà confermato, ma insomma è importante vedere un segno meno tra ottobre e settembre quanto a domande di cassa integrazione e a domande e richieste di disoccupazione. Primo tema con cui apriremo. Secondo tema, faremo riferimento alla vicenda chiaramente General Motors con l'ira funesta della Germania, perché la Germania è assolutamente in questo momento seccata, per essere eufemistici, dalla posizione presa da General Motors. Dice: ridateci indietro gli aiuti di Stato, insomma non ci vuole stare. Devo dire che anche da parte tedesca la gestione della cessione di Opel è stata una gestione, i tedeschi direbbero all'italiana e noi diciamo alla tedesca, perché è stata una gestione assolutamente caotica, confusa, problematica, politica, nel senso che si è aspettato fino quasi all'esito delle elezioni, con diverse offerte, con offerte scelte più dai sindacati della Opel che non da logica industriale, a nostro avviso, e comunque questo forse non ha aiutato. Certo che la sorpresa e la scottatura è forte per la Germania. Parleremo chiaramente anche di borsa, oggi di nuovo in rialzo, dico di nuovo perché l'altalena ormai è il movimento a cui ci stanno abituando i mercati, di nuovo in rialzo le borse, più 1,9% su tutti i listini, quindi FTSE All e FTSE MIB a Milano, più 2,4 a Parigi, più 1,80 a Francoforte, più 1,6 a Londra, l'1,3% lo guadagna l'America. L'euro è a quota 1,48,4, dell'oro già sapete se avete ascoltato i nostri GR, comunque ha toccato un nuovo record questa mattina, ha superato i 1.090 dollari all'oncia, questo per quello che riguarda il mercato di Londra, come conseguenza degli acquisti soprattutto indiani, ma anche come conseguenza di un dollaro che in perenne debolezza porta molti a comprare oro come bene rifugio e bene di protezione. Per quello che riguarda i mercati, ancora vi do i migliori e i peggiori tra quelli a maggiore capitalizzazione. Il peggiore Parmalat perde lo 0,3%, il migliore Exor più 5,2%, Saipem, Ansaldo STS che ha avuto la trimestrale, Tenaris più 4,6% a tutti questi tre titoli, Mediolanum più 4,5%, Fiat più 4,3%, Pirelli pure, Popolare di Milano più 4,1%, rialzo di Unicredit, il 3,70% quello di Bulgari e di Impregilo, il 3,4% quello di Lottomatica e di CIR. Oggi trimestrali anche per altri gruppi, Enel, mercato raccoglie tiepido, meno 0,3% dopo i dati a 4,07€. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666, e adesso le altre notizie in breve. Allora, dell'oro abbiamo detto, del petrolio in rialzo dopo un dato sulle scorte americane calate più delle attese a 80,6 dollari al barile l'oro, che quest'anno comunque ha fatto un rialzo l'oro nero, il petrolio ha fatto un rialzo complessivamente dell'80%. ricordo che si veniva da quotazioni come effetto della crisi finanziaria tra novembre e dicembre intorno ai 35-40 dollari al barile. Altre notizie di carattere internazionale: è di nuovo l'economista Nouriel Roubini quello che per primo predisse la crisi finanziaria globale a mettere in guardia adesso verso una nuova bolla pronta ad esplodere come conseguenza dell'impennata delle borse e delle materie prime. Ha detto Roubini, infatti, gli investitori stanno prendendo in prestito enormi somme di dollari con tassi ai minimi storici per finanziare i propri acquisti. Un carry trade, come si chiama in gergo, che si allarga sempre di più e più diventa ampio e più forte sarà lo scoppio della prossima bolla. Molti di voi vogliono sapere cos'è il carry trade. Beh, insomma, è quel meccanismo per cui tu prendi in prestito, è un atteggiamento assolutamente speculativo, ma insomma, tu prendi in prestito del denaro in paesi in cui i tassi di interesse sono molto molto bassi e lo cambi con la valuta dove i tassi di interesse sono più alti. Questa operazione ti permette di guadagnare. Ci sono paesi in cui i tassi sono al 3,3, penso all'Australia, e paesi in cui i tassi sono zero. Allora uno prende in prestito $1,000 americani e li cambia in $1,000 australiani perché li rendono $1,000 il 3,3%. Andiamo avanti con le altre notizie. Ripeto che di Opel parleremo più avanti. Cala l'indice dei servizi americani, l'ISM, a 50 punti. E per quello che riguarda le prime stime sui posti di lavoro persi nel mese di ottobre in America, dovrebbero essere 203.000, secondo l'abituale mensile sondaggio di ADP. 203.000 sarebbe un dato superiore alle stime, non di tantissimo, ma insomma di 5.000 unità, e comunque sarebbe inferiore invece ai posti di lavoro persi a settembre, che sono stati 254.000 in America. Però sempre da un altro sondaggio, quello di Challenger Gray Christmas, praticamente i licenziamenti programmati delle aziende americane a ottobre sarebbero in calo. Questo dato sembrerebbe in qualche modo confortare e supportare la tesi che la ripresa lentamente ma in maniera abbastanza continuativa sta prendendo piede. Sarebbero calati del 51% i licenziamenti programmati delle aziende americane nel mese di ottobre. Confcommercio, sempre su questa falsa riga, fra un po' partirà anche un gallo, mi sa, perché dice la Confcommercio anche a settembre tiene la domanda di consumi più 0,2% in Italia, chiaramente in questo caso quarto mese consecutivo in cui l'indicatore dei consumi mostra una sostanziale tenuta e sicuramente nessun calo né calo drammatico. E tra l'altro proprio un'indagine annuale di cui ha parlato questa mattina Deborah Rosciani, il Consumers Forum, vede l'80% degli italiani che dichiarano di spendere meglio rispetto a un anno fa, e anche è calata la percentuale di chi si sente in pericolo, è scesa dal 67% al 53%. Volete il gallo? Vabbè, gallo. Gallo o pollaio, insomma, è la nostra sottolineatura di notizie buone. Devo dire che dipende sempre, lo dico anche chi scrive, dalla situazione in cui uno si trova. È chiaro che vedere la cassa integrazione a questi livelli non è una buona notizia. È una buona notizia vedere che cala rispetto a settembre. Allora, parliamone con chi questi dati li ha diffusi. Il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, ma soprattutto va detto che per quello che riguarda i dati sulla cassa integrazione nel mese di ottobre rispetto a settembre abbiamo avuto complessivamente un calo del 9,7% per quello che riguarda la cassa integrazione complessiva rispetto a settembre. È in aumento chiaramente del 320% rispetto all'ottobre del 2008. E poi ancora la cassa integrazione ordinaria ha fatto un meno 17% rispetto a settembre nel mese di ottobre e un più 420% rispetto a un anno prima. la straordinaria è leggermente cresciuta rispetto a settembre, è cresciuta invece quella straordinaria in deroga più 10% rispetto a settembre, più 700% rispetto all'ultimo, a un anno prima. La cassa integrazione straordinaria in deroga è quella che si applica per imprese fino a 15 lavoratori. Allora, presidente dell'INPS Antonio Mastrapasco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, presidente, cassa integrazione nel mese di ottobre rispetto a un anno fa, all'ottobre del 2008, più 320%, quindi livello molto alto, però rispetto al mese di settembre, quindi mese su mese, c'è un calo anche significativo, meno 9,7%. Se non ricordo male è un dato abbastanza strano, anche perché di solito ottobre si è sempre avuto un ricorso complessivo alla cassa integrazione più alto rispetto a settembre. Vorrei un suo primo commento, e anche se avete individuato una spiegazione per questo calo, benvenuto. Innanzitutto è giusto fare una comparazione anno su anno, anche se però ricordiamo che la crisi sta dispiegando il suo momento, diciamo, peggiore agli inizi del 2009, quindi è chiaro che l'ottobre 2008 rispetto all'ottobre 2009 sono due mesi non comparabili, quindi noi ci siamo sempre concentrati a fare comparazioni mese per mese per vedere come sta evolvendo invece la crisi e la curva della crisi. Giusto. Noi ci aspettavamo ottobre, così come statisticamente i nostri report hanno sempre evidenziato, maggiore di settembre, quindi negli ultimi anni, sia quelli della crisi, quindi anni 80 e 90, sia quelli non crisi, ottobre è sempre stato maggiore di settembre. Ci ha invece sorpreso, ovviamente favorevolmente, che ottobre abbiamo una inversione tendenza abbastanza marcata, quindi meno 9,72 complessivo, quindi ordinaria, straordinaria e deroga rispetto al mese di settembre 2009. Le motivazioni sono quelle che poi sono un po' sotto gli occhi di tutti, abbiamo degli indicatori, la vendita autoveicoli c'è un più 15%, il commercio sta minimamente riprendendo, riprende l'export, ahimè riprende anche l'inflazione che comunque è uno degli indicatori di ripresa dei consumi. Ci sono una serie di indicatori, e questo forse è quello più importante e principale, che ci fanno ben sperare, anche perché all'interno del meno 9,72 la componente di ordinaria è meno 17%, quindi è una componente abbastanza marcata. La straordinaria è più o meno in equilibrio, più 1,70%, quindi è più o meno stazionaria rispetto a settembre. La deroga sale del 10% rispetto a settembre, però la deroga merita un discorso a parte. Allora, andiamo con ordine, perché lei insomma ha detto, sì, appunto, stranamente a ottobre la cassa integrazione non è stata più alta di settembre. Non ho capito, mi è sfuggito, chiedo Venia, se la giustificazione che vi siete data su questo dati su questo calo tra ottobre e settembre anomalo. Ma guardi, noi stiamo vedendo che sta ripartendo la macchina. Quindi, ripartendo la macchina, le aziende non utilizzano le casse integrazioni, né le chiedono né le utilizzano, e quindi di fatto abbiamo una richiesta inferiore di cassa integrazione. L'unica in controtendenza è la cassa integrazione in deroga. Ricordo che sono misure messe negli ultimi due decreti legge, quindi di febbraio e di giugno 2009, quindi sono misure straordinarie, i famosi 8 miliardi di euro messi dal governo e gestiti dall'INPS insieme alle regioni, e quindi indubbiamente abbracciando una platea totalmente diversa rispetto a quella che l'anno scorso era deroga, perché veramente dei singoli decreti per piccole realtà produttive, oggi estese a tutti, ci sono 8 miliardi e quindi si stanno utilizzando una parte. Allora, lei dice, va bene, c'è anche probabilmente un'economia che, stando a questi dati, è leggermente in ripresa, in recupero, e quindi mese su mese, non rispetto a un anno fa. A me interessa anche l'anno su anno, perché, per non dire poi che la cassa integrazione sta calando, rispetto a un anno fa siamo a un più 300%, rispetto a settembre siamo a un meno 9,7%. Questo può essere incoraggiante per capire la tendenza, quindi mese su mese la velocità anche in questo calo. Andiamo alle singole voci, perché sappiamo che in Italia c'è la cassa integrazione ordinaria, che è quella che si applica alle aziende più di 15 dipendenti. Sì, l'ordinaria, quella che è, insomma, attivabile in caso di crisi temporanea, no? Che non dipendono dalla singola azienda. La CIG ordinaria vedo che ha un meno 16,8% addirittura rispetto a settembre, resta di un 420% più alta rispetto all'anno prima. E qui il dato è buono. Poi c'è la cassa integrazione straordinaria, anche qui quella con aziende con più di 15 dipendenti, e si applica in caso, non ricordo, di ristrutturazione, riconversione o fallimento di un'impresa, di una singola impresa, e a durata massima di un anno. E qui siamo un più 1,7% rispetto a settembre. E poi la cassa integrazione straordinaria in deroga, quella che riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti. Qui c'è stato un aumento del 700% rispetto a un anno fa e anche del 10% rispetto a settembre. Alla luce di questi dati, la cassa integrazione aumenta di più laddove le imprese sono piccole, traducendo. E che sarebbe a significare, Presidente, che la difficoltà maggiore sul fronte occupazionale ce l'hanno proprio i piccoli imprenditori? La crisi si sta ripercuotendo un po' di più sui piccoli, però per fortuna ci sta uno strumento nuovo che li sta proteggendo. Ecco, questo è Si riferisce agli 8 miliardi per la cassa straordinaria in deroga? Ci sono i famosi 8 miliardi, mi piace poter dire che ad oggi noi ne abbiamo utilizzato un po' meno di 1,5 miliardi, quindi diciamo le risorse sono forse anche sovrabbondanti, però è meglio avere fieno in cascina, ecco, e vedere se ci potranno essere tempi peggiori, anche se gli indicatori non sembrano preludere queste possibilità. E noi ce l'auguriamo, tanto poi se avanzano dei soldi mi sembra che non sia un problema in questo momento trovare voci di spesa in generale. Andiamo alle domande di disoccupazione, perché voi come INPS oggi, Presidente, avete anche diffuso i dati relativi in questo caso a settembre sulle domande di disoccupazione e di mobilità. A quanto siamo e anche qui com'è la tendenza? Dunque, settembre è 90.000 domande, sì, che è in tendenza, diciamo, di aumento rispetto ad agosto. Anche qui è importante però contestualizzare, e basti pensare che a luglio erano 165.000 e gli ultimi tre mesi dell'anno scorso erano sopra le 100.000. Quindi questo significa che la disoccupazione comunque mantiene un trend stabile, ecco, non ci stanno né impennate né frusche frenate, quindi diciamo che la disoccupazione sta mantenendo una stabilità di domanda. La mobilità, e questo credo che forse da certi punti di vista è il dato che un po' più rincuora, è chiaro, in un momento di crisi, continua a diminuire. Significa quindi che le misure messe in atto dall'INPS di mantenimento dei lavoratori presso le aziende fino adesso non fa espellere nessuno dal processo produttivo, quindi se lei pensa che noi a gennaio avevamo 10.000 domande di mobilità, adesso stiamo a 4.000, quindi il trend è continuamente in discesa. Quindi le persone e le aziende continuano a mantenere il capitale umano in azienda e non ci sono fasi di espulsione. Quindi la mobilità, c'è un calo progressivo, erano 5.000 le domande in agosto, sono 4.500 adesso a settembre. Nel caso della disoccupazione c'è un aumento stagionale, perché ad agosto erano 60.000, però molto inferiore, il numero di richieste per disoccupazione molto inferiore a settembre rispetto all'andamento dei primi mesi della crisi, no? Per cui da ottobre erano state circa 100.000 al mese, da ottobre 2008 chiaramente, e adesso a settembre sono scese a 90.000, quindi c'è una decrescita anche lì. Sono dati incoraggianti, poi staremo a vedere, nessuno qua vuole, lo dico chi scrive, al 349-238-6666, né negare che vi sia un problema di occupazione nell'industria manifatturiera del nord, soprattutto quando piccola, e non solo del nord, ci mancherebbe, ma nell'industria manifatturiera in primo luogo, e infatti lo dico chi scrive, abbiamo citato aumenti del 700% nel caso della cassa integrazione straordinaria in deroga rispetto all'anno fa, comunque del 300% come ricorso alla cassa integrazione complessiva rispetto a un anno fa, ma si sta dicendo che la tendenza è a una diminuzione sia dei ricorsi alla cassa integrazione sia delle richieste di disoccupazione. Un'ultima domanda, perché la fanno gli ascoltatori, Presidente Master Pasqua, come vanno i conti dell'INPS, cioè chi ci deve pagare le pensioni? Guarda, l'anno scorso avete chiuso con 11 miliardi di euro di attivo, quest'anno? Esatto. Noi l'anno scorso abbiamo chiuso con più di 11 miliardi di euro di avanzo finanziario. Mm-hmm. Il 2009, che è un anno, come può ben comprendersi, difficile, perché i nostri conti comprendono anche i dati su cassa integrazione e quant'altro, dovremmo chiudere con circa 8 miliardi di euro di attivo, quindi credo che e persona nessuno può dare numeri diversi, ovviamente migliori dei miei, i conti e le casse dell'INPS sono in ordine e godono di buona salute, quindi questo credo che sia importante e confortante per tutti quelli che mensilmente versano i soldi e si aspettano poi di averli quando vanno in pensione. Ed eccola qua, me l'aspettavo, la domanda arriva sempre in questi casi, e allora vuol dire che non c'è un problema di pensioni, di tenuta dei conti pensionistici in Italia? Per quanto riguarda i conti dell'istituto non c'è, anche perché le nuove norme, l'ultima messa in vigore anticrisi, che allungherà l'età pensionabile in base all'aspettativa di vita, credo che siano il suggello di una stabilità dei conti e una certezza dei numeri. Allora, io dico una cosa però a chi scrive, forse c'è un po' di confusione, quando si chiede di, l'ho chiesto al governatore della Banca d'Italia, l'ho chiesto alla Confindustria, di alzare l'età pensionabile, non è perché i conti dell'INPS siano allo sbando, 11 miliardi e passa di attivo l'anno scorso, 8 miliardi quest'anno, per cui non c'è un problema in questo momento di tenuta dei conti dell'INPS, lo si chiede per un altro motivo, perché alzando l'età pensionabile si recupererebbero, si calcola circa 7 miliardi per ogni anno di età pensionabile, recupererebbe dei soldi lo Stato, le casse pubbliche recupererebbero dei soldi, non perché vi sia un problema di tenuta dei conti. Le due cose sono diverse, un conto è avere più soldi a disposizione perché non devi pagare pensioni, un conto è dire che non hai i soldi per pagare le pensioni. La convince in una battuta? Ho spiegato bene? Diciamo che spesso sono discorsi più di accademia che non reali, i soldi l'INPS ce l'ha e ha la certezza di averli lo sta dimostrando. Molto spesso diciamo che dire che si parte dalla riforma delle pensioni è anche molto ad effetto, e quindi io insomma... Ma lei non è d'accordo che alzare l'età pensionabile porterebbe a un risparmio dei conti pubblici? Porterebbe a un risparmio dei conti pubblici nel caso in cui oggi lo Stato stesse intervenendo nei confronti delle casse dell'INPS, ma questo non avviene né oggi e non è preventivato che avvenga nei prossimi anni. Sicuramente tutto è migliorabile, come per esempio il livello delle pensioni, quindi si può intervenire per varie ragioni. Sicuramente non per far cassa per altre cose, questo mi sembra che qualsiasi governo di qualsiasi colore politico l'ha escluso, che non si fa cassa con i soldi dei lavoratori. Ecco. Con l'età pensionabile o con i soldi dei lavoratori sono due cose però un po' diverse, Presidente Mastro Pasqua. Cioè, lei, ma è interessante questa posizione, lei mi dice non è detto che sia necessario aumentare l'età pensionabile, perché il governatore Draghi, la Presidente di Confindustria e altri soggetti hanno detto attenzione, se vogliamo liberare risorse, tra le altre cose, assieme alla spesa improduttiva, si può anche pensare a tenere le persone al lavoro un anno, due anni in più. No, io sto dicendo che questo qui è contenuto nella norma del 3 agosto, no? La norma del decreto, cioè della legge 102, prevede dal 2015 l'innalzamento automatico dell'età pensionabile rispetto all'aspettativa di vita. Quindi dico, avendo noi già oggi cominciato a considerare i nostri conti con la norma che è contenuta nel 102, quello che si dice è stato fatto e noi lo cominciamo già a registrare positivamente con delle proiezioni nei nostri conti. Quindi quello che è stato detto è sacrosanto, ci mancherebbe altro, non sta a me smentire né il governatore né tantomeno Confindustria. Sto dicendo che per fortuna è stato fatto, quindi quella messa in sicurezza rispetto all'aspettativa di vita in via automatica, ricordo che la norma dice che dal 2015 in via automatica, solamente vedendo i conti, le basi statistiche Istat e IMSS, si può e si deve innalzare l'età pensionabile, di fatto diciamo esaudisce quello che molti stanno chiedendo. Beh, interessante, grazie anche per questa diciamo valutazione. Quello che è certo è che i conti INPS non solo tengono, non solo sono in regola, sono anche in attivo, quindi qualunque ipotesi di riforma delle pensioni non la si fa perché c'è un problema con i conti INPS. Grazie al presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Alcuni dicono in sostanza che essendo aumentata molto la cassa integrazione poi va a rallentare. Non è detto perché molti si aspettano che invece i mesi peggiori siano novembre e dicembre, per cui ecco perché è una notizia il dato che a ottobre è calata la cassa integrazione, tranne quella straordinaria in deroga, quella per le piccole imprese, è calata rispetto a settembre, perché in realtà ci si aspettava un trend, come dicono quelli che hanno studiato, in crescita. E poi c'è chi dice: Barisoni, ma ti pagano per non ragionare? Certo che dopo la batosta gli indicatori rallentano, quando sto raschiando il fondo non perdo certo con la stessa velocità di quando ero partito col barile pieno. Questo non è pessimismo, è razionalità cognitiva, matematica, vi pagano per essere stupidi e non puntualizzare con i vostri ridicoli ospiti, cose ovvie. Beati i portatori di certezze, la borsa. Buona la giornata oggi di borsa, più 2% il FTSE MIB, più 2,40 il Parigi, più 1,7 Francoforte e più 1,3% Londra. L'1,3 lo sta guadagnando anche l'America. Tra i titoli migliori, adesso li citeremo praticamente tutti, Exor più 5,4%. Vi darò anche alcune dichiarazioni che ha rilasciato qualche minuto fa Sergio Marchionne, che sta presentando il numero uno di Fiat in America a Auburn Hills, il piano per far ripartire la Chrysler. Ne cito solo una perché obiettivamente mi fa sorridere. Ha detto Marchionne, iniziando l'incontro con i vertici e con i giornalisti: mi sento come il quinto marito di Zsa Gabor, so cosa devo fare ma non so se riuscirò a renderlo interessante. Non era male. Adesso andiamo avanti con il mercato e poi arriviamo anche a Fiat Chrysler. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Exor più 5,4, Saipem più 5,4, il 5% lo guadagna Ansaldo STS e anche Mediolanum, il 4,90 Tenaris e Pirelli, 4,4 Bulgari e Fiat, il 4,3 Popolare di Milano, il 4% il rialzo di Unicredito. Bene anche le CIR, più 3,7, l'Automatica più 3,5 come in pregilo, il 3,4 Boots Unicem come rialzo, il 3,3 Geox, il 3,1 Telecom Italia e Mondadori, il 3% Autogrill. Chi perde? Parmalat meno 0,2, Snam invariata a 2A pure, Enel alla fine viaggiava in negativo, anch'essa in trimestrale guadagna lo 0,2%, debole Intesa San Paolo, debole rispetto alla media, più 0,2%. Allora partiamo dalle trimestrali. Enel vede salire il risultato operativo, però tra l'altro va a 4,7 miliardi il risultato netto di gruppo, con l'indebitamento finanziario che sale a 54 miliardi. Visto che dicevo anche di Ansaldo, Ansaldo STS ha visto un più 11% di utile netto nei primi 9 mesi dell'anno. Chiudo con le trimestrali con Pirelli Real Estate, che ha perso nei primi 9 mesi dell'anno quasi 58 milioni di euro, è migliorato però l'andamento nel trimestre. Allora, Enel e Ansaldo. Per quanto riguarda Enel, che ha viaggiato intorno alla parità e poco o poco sotto la parità per la gran parte della giornata, diciamo che i conti non hanno più di tanto emozionato al mercato, ma va detto che in una giornata così vivace nel rimbalzo dei listini è naturale che gli investitori siano andati più su altri titoli piuttosto che su titoli difensivi, tant'è vero che a risultare sulla linea di galleggiamento sono stati appunto i settori le utility, l'energia oppure il settore alimentare, che invece sono ben acquistati nelle giornate diciamo così di maggiore turbolenza dei mercati. Ansaldo invece ha risposto bene al rialzo dell'utile netto sui 9 mesi, il rialzo in doppia cifra che tu ricordavi, e il titolo si è portato abbondantemente oltre i 13 euro, guadagnando più del 5% nella giornata di oggi. Ancora tra i titoli Fiat Exor, no, perché rido perché un ascoltatore ha detto basta con Fiat, no, toccherà parlarne anche oggi. Exor sulle attese per il piano Chrysler e anche Fiat, Exor più 5,4, Fiat più 4,3%, poi anche delle buone stime diffuse oggi dal gruppo Nissan hanno aiutato il settore, e bene anche Telecom Italia oggi. Sì, diciamo che in attesa dei conti di domani, Telecom Italia si è ben comportata, quindi ha subito l'influsso positivo dei listini. Va detto che le indicazioni invece sui fondamentali non sono così positive. Non solo ieri Telecom Italia Media ha annunciato la sospensione della vendita degli asset del digitale terrestre e quindi l'obbligo per la società di intervenire sul sul patrimonio, ma oggi sui giornali sono emersi anche certe divergenze tra gli azionisti, in particolare Marco Fossati, che è titolare attraverso la Findim di circa il 5%, critica la strategia di dismissioni del gruppo, in particolare la dismissione di Hansnet. Queste divergenze chiaramente non cambieranno probabilmente al momento la strategia di Telecom Italia, ma il mercato ha invece dimenticato per un giorno i fondamentali di Telecom, aspettando domani la trimestrale. Ancora tra i titoli, vogliono sapere molti ascoltatori della Roma Calcio, hanno ragione, lo scontro in corso tra la famiglia Sensi e il gruppo Unicredito, il titolo guadagna oggi il 16,8%, è in assoluto il migliore del listino, e poi il secondo migliore in assoluto è Banca Generali, più 9,7%, Azimut più 9,4%, Seat sulle risparmio più 7%, Risanamento più 7%, il peggiore... dunque Ratti meno 5,8%, Mondo Home Entertainment meno 6%, mi rimetto alla vostra clemenza, Danone meno 4,90%. Allora, la Roma Calcio. Non si finisce mai di speculare sul titolo Roma Calcio, la situazione non è certamente delle più rose o una situazione che spieghi più 16%, oggi sui giornali sono emerse nuove indiscrezioni, in particolare la possibilità da parte di Unicredit di impugnare il bilancio di Talpetroli, cioè la società della famiglia Sensi che controlla appunto la Roma Calcio, ma insomma in attesa di capire una volta per tutte quale sarà il destino della società, il mercato continua a speculare. Per quanto riguarda l'altro titolo che tu segnalavi come protagonista di una performance particolarmente brillante oggi, cioè Banca Generali, protagonista con una crescita di quasi il 10%, è una crescita che si spiega con l'ottima trimestrale diffusa nel pomeriggio, i primi 9 mesi dell'anno hanno visto l'utile netto salire moltiplicarsi per 9 volte rispetto a un anno fa, a circa 45,6 milioni di euro, e il margine di intermediazione crescere del 56%, e questo spiega il balzo con cui il mercato ha accolto i risultati. Allora, grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Mi sembra che le variazioni percentuali le abbiamo dette tutte, volete sapere degli energetici e di alcuni bancari. Pop Milano più 4,2%, Unicredito più 4,1%, bene anche le CIR più 3,7%, l'Automatica e Impregilo e Buzzi Unice guadagnano 3,5% e anche Geox, gli energetici Eni più 1,25%, e poi Snam appunto più debole. Oggi non è stata una giornata sugli scudi per gli energetici, tranne che per Saipem, ci mancherebbe, più 5,4%. L'ira funesta della Germania. Andiamo con ordine, però. Poco fa Marchion, oltre a aver detto di sentirsi come il quinto marito di Zsa Gabor, so cosa devo fare ma non so se riuscirò a renderlo interessante, lo trovo una battuta bellissima in merito alla vicenda Chrysler, sta presentando il piano di rilancio della Chrysler, ha detto che a fine settembre Chrysler aveva una liquidità di 5,7 miliardi di dollari, che è una grandissima giornata per Chrysler, e che Chrysler è stata parsimoniosa, questo appunto giustificare anche una liquidità ritrovata dal gruppo a fine settembre. E poi una punta di veleno sulla Opel, ha detto la General Motors ha fatto assolutamente bene, una scelta totalmente razionale perché, considerando quello che è successo, era l'unica soluzione, hanno fatto bene a non vendere la Opel, ed è una cosa buona per l'Europa perché fanno le cose che dovranno fare, dovranno razionalizzare le infrastrutture in Europa che sono troppo grosse e complesse. Questo è un business complicato, ha continuato Marchionne, le scelte razionali industriali vanno fatte in una maniera molto precisa. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore della Germania, buonasera. Buonasera. E chissà quando i tedeschi leggeranno le dichiarazioni di Marchionne, come gli gireranno quelle cose che giravano i francesi in una canzone di Paolo Conte, per usare un po' di perifrasi. Allora, quanto arrabbiati sono i tedeschi e perché soprattutto? Ma i tedeschi sono molto arrabbiati. Sono molto arrabbiati per due motivi. Prima di tutto perché non si aspettavano questa decisione di General Motors, e quindi inevitabilmente la decisione inaspettata crea risentimento. E credo che il secondo motivo è che a questo punto si apre un capitolo di grande incertezza per Opel. Opel ha 50.000 dipendenti in Europa, di cui 25.000 in Germania, e il governo tedesco aveva appoggiato l'opzione Magna, oggi rifiutata da General Motors, perché era un'opzione che permetteva di limitare gli esuberi in terra tedesca. Quindi il governo federale a questo punto vede con grande incertezza e con grande preoccupazione il futuro, teme che due stabilimenti su quattro in Germania vengano chiusi e soprattutto teme la reazione dei sindacati e la reazione dei lavoratori. Ecco perché la Germania è molto arrabbiata. Allora, diventando molto molto seri, è chiaro che nessuno vuole, si può augurare la chiusura degli stabilimenti della Opel in Germania, né di avere migliaia di lavoratori, anche se in questo caso tedeschi, disoccupati. Però Beda Romano, c'è quella dichiarazione di Marchionne, c'era molto veleno e anche un po' di sassolino che usciva dalla scarpa. Perché? Perché se l'ho ben interpretato, lui dice: il modo in cui la Germania ha condotto questa trattativa è stato così caotico e confuso che alla fine ha fatto bene la General Motors, considerando quello che è successo era l'unica soluzione da fare. Allora, il 14 novembre di un anno fa, cioè praticamente un anno fa, arriva la richiesta di 1 miliardo di euro per affrontare la crisi da parte della General Motors dello Stato tedesco. A metà febbraio 2009 la General Motors annuncia 47.000 esuberi, di cui appunto 26.000 fuori dagli Stati Uniti. E poi piano di salvataggio dei vertici Opel a inizio marzo, poi si va a Angela Merkel che il 31 marzo promette aiuti di Stato alla Opel, bisogna fare poi un passaggio il 23 aprile, entra in scena anche la Fiat, l'offerta della Fiat, poi si aggiunge la russa Sberbank, la belga RHJ, la cinese Bike. Insomma, il 27 maggio si annuncia la separazione da Opel. È stata una vicenda in cui sostanzialmente la trattativa è stata molto confusa e molto più politica, a nostro avviso, che non industriale. I sindacati che non volevano la Fiat, non volevano gli italiani, si è preferito un fondo finanziario con un produttore di componentistica piuttosto che un gruppo industriale. Non è stata gestita male questa cosa dal governo e dai sindacati tedeschi? No, è stata gestita male, naturalmente, gestita male. Insomma, il governo ha giocato la sua carta. Non dimentichiamo che questo è stato un anno di elezioni in Germania, si è votato il 27 settembre. Non dimentichiamo che al governo prima del 27 settembre c'era una coalizione estremamente insolita, una grande coalizione tra socialdemocratici e democristiani. I socialdemocratici avevano preso posizione a favore di Magna perché quella era la soluzione voluta dai sindacati tedeschi. Per evitare di essere spiazzati e per evitare di essere attaccati dai socialdemocratici in campagna elettorale, i democristiani della signora Merkel hanno deciso anche loro di optare per Magna. La cosa non ha funzionato, ma credo che non abbia funzionato non solo perché forse la soluzione non era dei migliori, ma anche perché sul fronte americano sono cambiate le cose. Vedo almeno due motivi per cui General Motors ha deciso di perseguire una strada diversa, sì, e di non vendere Magna. Credo che il primo motivo sia strategico. In un momento in cui la ripresa sembra prendere un po' più di peso, in un momento in cui il mercato automobilistico sembra leggermente migliorare, sono riemersi i veri fattori strategici. Opel per General Motors è una filiale essenziale perché non vende soltanto in Europa, vende anche in Brasile, sì, in America Latina, in Cina, nei mercati che crescono. E il secondo motivo? E il secondo motivo è politico. In questo momento di crisi economica e di tensioni internazionali, credo che in una società come General Motors, di proprietà in parte dello Stato, l'idea di vendere una filiale così importante a una società austro-canadese appoggiata dai russi Ho l'impressione che non sia andata a genio a una parte dell'establishment politico americano. E questo si chiama errore politico del governo Merkel, perché a nostro avviso, ma non perché, come scrivono alcuni, noi tifassimo per Fiat, tifiamo italiano sempre, anche in questo caso, ma perché obiettivamente venderla a una cordata un po' appezzottata, un po' all'Arlecchino, non ci è mai sembrata un'offerta così industrialmente interessante. Solo la voglia di non darla agli italiani, di non darla a qualcun altro, insomma, e lì dovrebbero fare un po' di autocritica i sindacati tedeschi, che adesso piangono, sindacati dei metalmeccanici, che fin da subito si opposero all'offerta Fiat di creare un gruppo Fiat, Chrysler e Opel. Comunque, adesso è troppo tardi e comunque Opel resta di General Motors, vedremo con che ridimensionamento. Grazie a Beda Romano. Si è detto, attenzione, si può risparmiare la spesa pubblica corrente a partire dalla spesa sanitaria, poi si può risparmiare anche, o meglio, far cassa con la lotta all'evasione e con la soppressione di alcuni enti inutili, magari anche con quella delle province, però lì ci sono soldi, 15 miliardi stima Confindustria. Prima di avere questo, alcuni aggiornamenti su quanto sta dichiarando Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, da Auburn Hills, dove sta presentando il piano per rilanciare la Chrysler, dopo aver detto che la Chrysler è stata parsimoniosa e quindi ha trovato una liquidità di 5,7 miliardi di dollari a fine di settembre, è aumentata la liquidità di 1 miliardo e 700 milioni di dollari, ha anche annunciato che la Chrysler ridurrà da 11 a 7 le piattaforme produttive, di cui 3 saranno condivise con Fiat. Poi potrà contare su 21 modelli nuovi entro 2014, tra l'altro le ha mostrato alcune diapositive durante l'intervento, e quindi tornare assolutamente in pareggio operativo. Tra l'altro sono presenti circa 450 persone tra rappresentanti del governo americano, sindacalisti, azionisti, analisti finanziari e quant'altro. Adesso però parliamo appunto dei conti pubblici italiani, come si può riportare in ordine. Ieri l'appello dell'economista ai nostri microfoni, Franco Bruni, che diceva: invece che pensare a una grande operazione, facciamone tante di piccole, da ognuna delle quali si possono ricavare soldi per abbattere il deficit e il debito, un po' di risparmio sulla spesa pubblica, un po' di risparmio su quella sanitaria, un po' sull'accorpamento degli enti inutili, un po' sulla lotta all'evasione e via così, e poi alla fine escono fuori i miliardi per non strangolare, altrimenti con un esperimento della pressione fiscale, con un taglio brutale della spesa pubblica, la ripresa è in corso. La sanità quindi è oggi. E oggi una delle spese su cui lavorare è proprio la sanità. Buongiorno. Buongiorno, Radio Nertucci, febbre? 39. Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno, professore. Buongiorno, come andiamo, signora Paoloni? Male. Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha. Buongiorno, signori. Salute. Eccolo, è lui che soffre di ulcera gastrica? No, è l'altro, professore. È molto che lei soffre di ulcera gastrica? Saranno almeno 6 anni. Sì. Recentemente ho avuto delle emorragie. Sì. Il dottor Teroni ha fatto le analisi. Sì. E mi ha convinto di tornarsela a casa. No, professore, di farmi operare. E va bene. Il signore ha chiesto una camera a pagamento. E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta? Sì, lo so, ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia. Complimenti, è così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore. Grisenti. Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Ma sì, la buttiamo un po' sul ridere, perché sennò ci sarebbe da piangere. Oggi uno studio del CERM certifica non solo i risparmi che potrebbero arrivare da un maggior contenimento della spesa sanitaria, maggiore efficienza e minori sprechi, non stiamo parlando di tagli, lo 0,7% del PIL ogni anno, 7-8 miliardi così, che potrebbero servire per altro, ma soprattutto emerge anche il dualismo nord, centro-nord da una parte e sud dall'altra. C'è una media, il modello standard di quanto costa un servizio, ebbene sopra questa media sono la Campania, questi servizi costano il 30% in più, la Sicilia il 25% come la Puglia, poi il Lazio più 17%, anche il Trentino ha dei costi più alti rispetto alla media, 17% in più, la Liguria più 14% e la Basilicata più 9%. E poi chi sfora i tetti? Allora, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise sono già commissariate per la Calabria. In arrivo l'iter, è stato comunque avviato l'iter di commissariamento. Noi spendiamo 103 miliardi di euro l'anno per la sanità, c'è un deficit, un buco, mancano all'appello 4 miliardi di euro che sono riconducibili appunto a queste sei regioni a cui con diverse anche con diversi pesi. Il Lazio sta colmando attraverso l'addizionale IRPEF e IRAP un buco da 1,7 miliardi, la Campania ne ha finora uno da 1,2 miliardi, e il Molise 42 milioni, però 91 milioni per quest'anno, e poi c'è la Sicilia con 120 milioni di buco nel 2008 e 220 milioni stimati per il 2009. Ma il record poco invidiabile va alla Calabria, 1 miliardo e 700 milioni di euro, di cui 900 milioni di rosso accumulati fino al 2005 e altri 800 milioni tra il 2006 e il 2007. Fino al 2007 nessuno parlava in Calabria di questi debiti. Tutto è iniziato quando il governatore Loiero ha avviato una prima riorganizzazione riducendo il numero delle ASL. Ora, noi non vogliamo fare i qualunquisti, però non è possibile che in Calabria ci sia il doppio delle TAC prescritte sulla base della popolazione rispetto alla Lombardia, anche perché poi il 60% di queste TAC vengono fatte fuori dalla regione Calabria. Non è possibile che il sangue costi 4 volte il sacchetto di plasma più che in altre regioni. E sempre per essere non populisti, l'ospedale di Vibo Valentia, quello commissariato, ha costi di 49 milioni, un deficit di 26 milioni. Poi c'è quello di Tavola Nuova, 19 posti letto e 174 dipendenti, praticamente una clinica svizzera, 10 dipendenti per ogni ricoverato. E poi i 5 ospedali della Piana di Gioia Tauro che forniscono prestazioni per 23 milioni di euro, ma hanno registrato un buco da 50 milioni, incredibile. Ci vuole proprio una mente finanziaria per riuscire a fare una cosa del genere. E ogni tanto lo ricordiamo perché ci sono anche i casi virtuosi. A Palermo, dopo che è arrivato l'amministratore giudiziario, il costo che la regione paga per una TAC si è ridotto a un decimo, incredibile, da 128.000 a 9.000 euro. E un ciclo di terapie per tumore alla prostata è passato da 136.000 euro a 8.000 euro, senza che, diciamo, vi fosse, per fortuna, nessun danno sui pazienti. Allora, boh, chissà. Magari la mafia, magari la 'ndrangheta, magari la camorra, magari gli assessori corrotti, magari gli accordi con certe cliniche, magari certe cliniche private, gli accordi per farsi rifinanziare, bah, sono tutte cose che ogni tanto leggiamo. Comunque, noi restiamo sui conti aggregati, che è meglio per tutti, forse è meglio anche per noi. E lo facciamo con il presidente, con il direttore del centro di ricerca CERM, Fabio Mammolli. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, stiamo sui dati aggregati. Allora, voi avete scoperto che si potrebbero attuare minori spese sanitarie, che non vuol dire ridurre le prestazioni, per circa 11 miliardi di euro all'anno come risparmi. Stiamo parlando dello 0,7% del PIL. Noi abbiamo svolto un'analisi che va in questa direzione e dà queste cifre. E naturalmente non abbiamo la pretesa di aver colto al centesimo i risparmi possibili, ma sicuramente riteniamo di aver catturato la magnitudo di riferimento per questi risparmi di spesa possibili, perché abbiamo innanzitutto standardizzato la spesa rispetto a un insieme di variabili demografiche riferite alla struttura della popolazione, riferite ai comportamenti e alle abitudini degli individui e riferite poi a tutta la struttura dell'offerta sanitaria. Quindi abbiamo utilizzato un numero di variabili molto elevato per controllare l'andamento della spesa e quindi passare dalla spesa pro capite grezza alla spesa pro capite standardizzata. E devo dire che questa analisi conferma, ad esempio, che la Campania, per il livello complessivo di salute che eroga, di servizi sanitari che eroga, ha un residuo non spiegato, quindi una parte di spesa non spiegata che è prossima a un terzo, addirittura è superiore a un terzo rispetto a quanto non ci si aspetterebbe avendo controllato per tutto ciò che in coscienza ci sembrava possibile controllare. Allora, il concetto di costo standard è fondamentale, tra l'altro, perché è alla base del progetto di federalismo fiscale. In pratica si dice che un servizio sanitario può avere un costo medio, un attacco, una sacca di plasma, un'operazione, un intervento, si trova un costo medio e poi si dice questo è il costo che che regge nel paese. Se tu hai un costo superiore, in qualche modo è ingiustificato, oppure devi giustificarlo con degli elementi eccezionali. Per cui è per questo che voi poi non capite, professor Pammolli, com'è che in alcune regioni si paghi il 30 o il 20% in più rispetto al standard del servizio sanitario offerto? È così, però con una precisazione. Prego. Noi in Italia, dal decreto 56-2000 che avvia il percorso federalista, siamo all'inseguimento non della pietra verde ma del costo standard per ciascuna prestazione, proprio nella direzione che lei stava dando in questo momento. Una delle indicazioni che questo studio dà è che la magnitudo dei risparmi possibili è talmente grande che prima di arrivare alla costruzione di una matrice molto ricca di caselline, dove ogni prestazione viene confrontata da regione a regione e quindi si va verso una analisi micro delle strutture di costo delle singole prestazioni, si deve e si può fare un'analisi dei risparmi possibili a livello aggregato controllando per i livelli di assistenza erogati, perché la preoccupazione che abbiamo è quella di un contenzioso infinito se il confronto politico è riferito anche alle scelte di politica economica si dovesse spostare su ogni singola prestazione. Allora mi faccia capire, voi temete che se il dibattito va sul costo della singola sacca di plasma, sul costo del singolo intervento, sul costo dell'anestesista, per ora non se ne esce più perché la regione Val d'Aosta dice una cosa, quella Calabria un'altra, quella Friuli, adesso cito volutamente le regioni anche a statuto autonomo, l'Emilia un'altra cosa e via così. Voi dite, se però si prende il costo complessivo della sanità erogata, si riesce ad avere meno caselline e quindi meno oggetti di contenzioso? E si dà anche alla politica e alla politica economica la responsabilità che le compete, perché l'illusione di andare a cercare sicurezze in matrici dettagliatissime di strutture di costo a livello delle singole prestazioni è un'illusione, perché sappiamo che ogni prestazione può riflettere costi comuni e costi fissi diversi da modello organizzativo a modello organizzativo, e siccome le cifre sono di quella magnitudo che abbiamo detto all'inizio, insomma si può sgrossare molto bene controllando poi per l'adeguatezza a livello minuto, perché questo è importante, ma sulla finanza pubblica si può sgrossare molto bene lavorando su un numero di variabili molto minore. Allora ci faccia capire cos'è invece l'ipotetica regione standard, cioè senza andare a vedere il costo della singola terapia o analisi o intervento chirurgico effettuato, voi avete detto c'è un costo complessivo per regione? C'è un costo che viene spiegato dai regressori, dalle variabili utilizzate, quindi una spesa che viene interamente spiegata dalle variabili di controllo utilizzate, tutto ciò che non viene spiegato rappresenta uno scostamento da quel livello e quindi ci sono scostamenti in negativo e scostamenti in positivo. Noi abbiamo preso, nel nostro caso, il Friuli Venezia Giulia, veniva la regione che nel corso del periodo considerato fino al 2007 aveva lo scostamento negativo più alto in valore assoluto rispetto alla media nazionale, quindi era la regione più virtuosa rispetto ai controlli effettuati, e abbiamo riproporzionato gli scostamenti delle altre regioni rispetto a questo benchmark. Ma al contrario di altri esercizi che abbiamo visto nei mesi passati, noi non abbiamo fissato nessuna regione come yardstick o come elemento di riferimento a priori per le nostre analisi. Lo abbiamo, come dire, ottenuto dall'analisi che è stata svolta. Quindi poi gli scostamenti sono scostamenti da questa componente spiegata della spesa. E quindi voi dite, per quello che spende la regione Campania e la regione Sicilia, c'è un 32%, tu spendi 132, 100 sono spiegati dalle voci che tu hai, ci manca di capire quel 30% in più, perché rispetto alla spesa che hanno altre regioni che offrono un servizio sanitario più che adeguato, non si capisce perché. Così? Non si capisce assolutamente così, non si capisce perché né in termini di struttura dell'offerta, né in termini di prestazioni, né in termini quindi di outcome, né in termini di struttura della domanda per composizione della popolazione, eccetera. Quindi e allora, secondo lei, perché? Non spiegata. E secondo lei perché? Beh, è una componente non spiegata. È chiaro che questo apre una discussione molto dettagliata e minuta sulle strutture ospedaliere periferiche, sugli sprechi, sui costi del personale, sulle cliniche svizzere poste diciamo in luoghi che la Svizzera non sono, a cui faceva riferimento lei prima. E sulla corruzione si può dire? Prego. E sulla corruzione si può dire? Assolutamente sì, così come si può dire sulla mala gestione intesa ad esempio su risparmi relativi alle differenze che si registrano nei capitolati e nelle gare riferite all'acquisto di beni e servizi. Abbiamo molte voci possibili sulle quali andare. Noi abbiamo fatto una rilevazione che volutamente mette in evidenza le grandezze in gioco e infatti stiamo lavorando con degli esperti a livello più micro proprio per andare a caratterizzare queste fonti minute nelle regioni che vengono evidenziate come regioni. Sì. Sì, professor Pamolli, adesso siamo veramente in chiusura. Grazie al direttore del CERM per questa indagine e che dovrebbe dimostrarci insomma, quanto le regioni offrono un servizio più o meno standard sui costi. Allora, veramente tutto al 349, molte domande, quindi come mai la corruzione c'è anche al nord nella sanità? Certo che c'è, l'hanno dimostrato casi recenti anche in Lombardia, forse però è una corruzione un po' più efficiente? Nel senso che poi si ottiene anche qualcosa, come avviene in altri paesi europei, c'è corruzione, corruzione, questo si può dire, forse sì, forse sarebbe oggetto di una puntata, ma probabilmente non la faremo mai. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.